La notizia che il governo della Tanzania ha deciso di somministrare gratuitamente i farmaci antiretrovirali per i malati di AIDS è sicuramente un'ottima notizia. Se pensiamo che solo fino a un paio d'anni fa nessuno parlava di somministrare i farmaci ai malati di AIDS in Africa, si parlava esclusivamente di fare prevenzione, una cosa contro cui i Medici Senza Frontiere si è sempre battuta, perché i farmaci contro l'AIDS esistono, sono efficaci nei paesi occidentali, permettono ai pazienti di avere una qualità della vita decisamente soddisfacente. Speriamo che dalle parole si passi ai fatti, perché un altro importantissimo paese africano, il Sudafrica, che è un po' l'emblema della lotta all'AIDS, ha fatto un annuncio di questo tipo l'anno scorso, ma fino a oggi purtroppo questo piano di somministrazione dei farmaci negli ospedali pubblici del Sudafrica ancora non è decollato e non sta raggiungendo i numeri di persone sperati. Questo avviene perché oggettivamente distribuire i farmaci in Africa è molto difficile, ma soprattutto è difficilissimo per i governi africani acquistare i farmaci antiretrovirali a prezzi accessibili. È difficilissimo perché i governi occidentali stipulano con i paesi africani degli accordi sul commercio di farmaci che sostanzialmente tentano di imporre a questi paesi l'acquisto di farmaci di marca, cioè di farmaci prodotti dalle multinazionali americane o europee. Questi farmaci, anche quando vengono offerti dalle multinazionali a prezzi scontati per i paesi in via di sviluppo, hanno comunque sempre dei costi altissimi. Si tratta di una grandissima ingiustizia, perché sul mercato mondiale esistono dei farmaci contro l'AIDS efficaci ed economici. Sono dei farmaci generici che vengono prodotti prevalentemente in India, ma anche in Thailandia e in Brasile. Sono farmaci di qualità, la loro qualità è stata certificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questi farmaci generici prodotti in India hanno un costo molto più basso di quelli prodotti dalle multinazionali occidentali. Per dare un'idea della differenza di prezzo, i farmaci prodotti in India costano circa $200 l'anno per paziente, la terapia completa costa $200 l'anno per paziente. Se si utilizzano invece i farmaci prodotti dalle multinazionali occidentali, anche con i prezzi scontati, il costo è di circa $560 l'anno per paziente. Quindi evidentemente Medici Senza Frontiere, con la campagna per l'accesso ai farmaci, chiede che i paesi africani possano acquistare i farmaci più economici disponibili sul mercato, che in questo momento sono i farmaci generici, e in generale chiediamo che venga sollecitata la concorrenza tra produttori di generici e produttori di farmaci di marca, perché l'esistenza di questo tipo di concorrenza ha già dimostrato che è possibile abbassare di moltissimo i prezzi per i farmaci. Lo scorso dicembre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato un piano che viene chiamato 3x5, ed è un piano che si propone di portare i farmaci a 3 milioni di malati entro il 2005. Si tratterebbe di un obiettivo ambiziosissimo, perché oggi si stima che i malati di AIDS nel mondo sono 40 milioni, la maggior parte vivono nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, e di questi 40 milioni sono 6 milioni le persone che hanno bisogno immediatamente della terapia antiretrovirale, altrimenti perderanno la vita. Quindi se l'obiettivo dell'OMS di curare 3 milioni di persone entro il 2005 si realizzasse, vorrebbe dire portare i farmaci alla metà delle persone che ne hanno urgentemente bisogno. Purtroppo il piano dell'OMS è stato lanciato lo scorso dicembre, ma a tutt'oggi non ha fatto significativi passi avanti, per due ordini di motivi. Da una parte perché i governi occidentali non stanno finanziando questo piano, dall'altra parte stiamo assistendo a una precisa strategia, la chiamerei di boicottaggio di questo piano, da parte in particolare del governo degli Stati Uniti. Infatti l'amministrazione americana ha più volte messo in discussione la qualità dei farmaci generici, questi farmaci indiani che hanno un costo molto ridotto. l'hanno messa in discussione sulla base di argomentazioni, secondo Medici Senza Frontiere, pretestuose, perché questi farmaci generici sono di qualità certificata, l'ha certificato l'OMS e Medici Senza Frontiere li utilizza nella gran parte dei suoi progetti di lotta all'AIDS. Oggi Medici Senza Frontiere cura circa 11.000 malati di AIDS, più della metà di loro li curiamo con i farmaci generici prodotti in India e i risultati sono eccellenti, questi pazienti stanno immediatamente molto meglio. Purtroppo l'amministrazione americana boicotta l'uso di questi farmaci perché si tratta di, appunto, di farmaci prodotti in India che in qualche modo indirizzano il mercato verso i farmaci indiani e non verso i farmaci made in USA.